Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica, rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura, di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia a tutti voi l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Quest'oggi non so veramente come iniziare, sono in difficoltà, lo ammetto. Ci ho pensato parecchio prima di andare in onda, ma non sono riuscito a trovare le parole giuste da dire, finché non è arrivato il momento di dover alzare il cursore del microfono e aprire la bocca. E allora si va a braccio. Le mie parole adesso sgorgeranno spontanee, le vostre magari le potrete meditare, ma so che arriveranno in molte a Giulio, a radiorockfm.com. Sentite, intense, forti. E io le leggerò nelle prossime settimane, nelle settimane che rimarranno, sì, perché questa è una delle ultime settimane di Eclettica su Rock FM, questa è una delle ultime settimane di Rock FM. Poi Eclettica sicuramente proseguirà da qualche parte, lo saprete, ve lo farò sapere e avrete modo di continuare a mantenere il contatto, avremo modo di continuare a rimanere assieme, però comunque è la fine di un percorso durato 14 anni. Un ragazzo ho mandato alla camera gas di Huntsville. Uno e soltanto uno. Su mio arresto e mie testimonianze. Sono andato a trovarlo due o tre volte. Tre volte. L'ultima volta il giorno dell'esecuzione. Non ero tenuto ad andarci, ma ci sono andato lo stesso. E non avevo certo voglia. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. E posso dirvi subito che non ho mai avuto questa gran voglia di andarlo a trovare, né tantomeno di assistere all'esecuzione. Però ci sono andato lo stesso. I giornali scrissero che era un crimine passionale e lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Lui con quella ragazzina ci usciva insieme, anche se era così piccola. Il ragazzo aveva 19 anni e mi disse che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno. Questo era l'incipit di Non è un paese per vecchi di Cormac McCarthy. You say you love me, but I don't have any proof. And if you left me, it would break my heart in two. Split like a wishbone part for me, but most for you. And what would you wish for? There's so many things to lose. And I need all that I have to prepare. Do I feel so bad? stop outside of Brainerd. I know a place there we can get laid. What do you think? I'm fucking hungry now, you know. Yeah, Jesus. Saying we can stop, get pancakes, and then we'll get laid, all right? Caro Giulio, le mie vogliono essere parole di sincera gratitudine, un concetto strano per me, delineato dall'ammirazione e dalla ricchezza d'animo. Oggi pomeriggio, venerdì 14 marzo, ho ascoltato le mie parole pronunciate dalla tua voce. Non le avevo riconosciute subito, non avevo focalizzato le loro espressioni. Ho ascoltato e, al petto, ho iniziato a sentire il calore del sangue, muoversi e correre verso la testa. La tua voce si soffermava tra le pause dei miei pensieri. Il tuo timbro rimbalzava tra la punteggiatura e le frasi sospese. Non avevo mai ascoltato una voce strana pronunciare qualcosa di mio, e solo mio. È stato come fare un regalo della purezza più vera. Mi sono sentita negata, consciamente, di una parte estremamente intima. Una parte che non mi apparteneva più, ma che faceva parte di un insieme, capace di essere condivisa con altre persone. È stato meraviglioso. Ero parte di qualcosa. Direi che questo mail è arrivato al momento giusto. È il momento giusto in cui leggere queste parole e capire che cosa voglia dire essere parte di Eclettica. Non c'entra se si è al di qua o al di là del microfono. 4th of July è la band che ha aperto quest'oggi la trasmissione Heart Attack, poi Girls in Hawaii dal Belgio con la loro nuova This Farm Will End Up in Fire, ed ora invece Islanda, un artista che si fa chiamare Borco, ma è solo uno pseudonimo. Il suo vero nome invece è Björk Kristjansson. Incide per la More Music, la quale spesso mette in catalogo artisti islandesi, e altrettanto spesso l'Islanda compare all'interno delle playlist di Eclettica. È un album intitolato Celebrating Life, dal quale vado ad estrarre Ding Dong Kingdom. Standing at my door, peeping through my keyhole, banging my tin drum. Eccolo, il ragazzino. È pallido e magro. Indossa una camicia di lino lisa e sbrindellata. Attizza il fuoco nel retrocucina. Fuori si stendono i campi arati, scuri e cosparsi di chiazze di neve, e poi boschi più scuri che celano ancora i pochi lupi rimasti. I suoi sono noti come taglialegna e venditori d'acqua, ma in realtà suo padre era maestro di scuola. Sdraiato, ubriaco, cita versi di poeti i cui nomi sono ormai andati perduti. Il ragazzo si rannicchia accanto al fuoco e lo guarda. La notte in cui sei nato. 33. Leonidi le chiamavano. Dio, come cadevano le stelle. Con lo sguardo cercavo il buio, buchi nel cielo. L'orsa correva. La madre, morta da 14 anni, aveva incubato nel ventre proprio la creatura che l'avrebbe uccisa. Questo era l'incipit di Meridiano di sangue di Cormac McCarthy. Mr. Lundgaard, you're a bald-faced liar. Fucking liar. A fucking liar. We'll be right back. arrivato a noi grazie ad una colonna sonora, questo inedito degli LCD Sound System che si è appena chiuso dal titolo Big Ideas. In precedenza invece dalla Francia Mademoiselle Caro e Fran Garcia con Dead Souls. E si chiude la prima parte di Eclettica, vi ricordo che ce ne sarà una seconda poi a proseguire per altri 30 minuti e che queste due parti di ogni giorno fra le 19 e le 20 sono poi disponibili anche in podcasting. Prima parte che si chiude con un quartetto di Brooklyn all'esordio, si chiamano The Subjects e nel caso vogliate avere dettagli su di loro li potete trovare sul sito thesubjects.net. The Subjects che si autoproducono quello che è il loro primo album, il disco d'esordio dal titolo With the Ease, Grace, Precision and Cleverness of Human Beings, dal quale ci ascoltiamo I Could Never Tune. I could never tune my heart to hear melody you sang so clear. Always seemed to disappear. And I could never scale the wall. If I had to choose